Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna via Zanardi, nonché potete ascoltarci anche tramite il web scaricando l'apposita app sul sito, sul nostro sito che si chiama radiocittafujiko.it e da qualche tempo anche qui nelle nostre zone, nelle province limitrofe, tramite il DAB. Quindi sempre in evoluzione Radio Città Fujiko. Mercoledì ore 10.30 è l'orario di apertura di una trasmissione che si chiama Città Fujiko Live Club, che si propone di farvi ascoltare brani registrati dal vivo in ogni epoca e di quasi ogni genere. E come sempre anche quest'oggi Città Fujiko Live Club inizia con una novità. Novità succulenta, oserei dire. Si tratta in realtà di un combo, vale a dire una combinazione fra CD e Blu-ray. Sono due dischetti, appunto, uno è il CD e l'altro è il Blu-ray. Ancora una volta la mia avversione per questo genere di cose, visto che non possiedo un Blu-ray e raramente guardo anche i DVD, quindi è una cosa per me assolutamente inutile, ma questa è una questione personale che a voi non interessa. Forse a voi interessa sapere che il titolare della novità di oggi è un grandissimo personaggio della musica rock di tutti i tempi. Si chiama James Newell Ostenberg Jr. Alcuni di voi però lo conosceranno meglio come Iggy Pop. Il buon Iggy viene da un paese che si chiama Muskegon nel Michigan ed ha iniziato la propria carriera tantissimi anni fa con gli Stooges, che sono arrivati dagli anni 60 fino al 2016, ma con tantissime interruzioni e diversi cambiamenti di personale. Iggy Pop è anche molto conosciuto per la sua amicizia, la sua connessione con David Bowie. Fecero insieme un lungo periodo berlinese dove Bowie tirò fuori, diciamo così, dal cappello alcuni album veramente notevolissimi. Lo stesso Iggy Pop ha fatto diverse cose in quel periodo, ma nel corso della propria carriera ha fatto un sacco di album live e questo è uno degli ultimi. Si chiama semplicemente Montreux Jazz Festival 2023 e già il titolo dice lungo, la dice lunga. È stato registrato nel Jazz Festival della città svizzera, che si svolge ormai da tanti anni ed è uno dei festival più importanti in assoluto del mondo. In particolare questo album, che come dicevo è un CD solamente più Blu-ray, è stato registrato all'Auditorium Stravinsky della cittadina svizzera il 6 luglio del 2023. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è forse quello più conosciuto di Iggy Pop, ma ce ne sono tantissimi, si chiama The Passenger. Pick me up, baby! I see the stars above. passenger. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. All of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Oh. I sing la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Una precisazione che ho dimenticato di fare prima è che quando dico novità intendo novità per la mia trasmissione. Infatti so per certo che alcuni brani di questo album vi sono stati proposti in una trasmissione da Andrea Gozza e Angela Zocco oramai diverse settimane fa. Quindi la novità riguarda, come dicevo, la mia trasmissione, e la novità è questo Montreux Jazz Festival 2023 di Iggy Pop, personaggio che è la definizione umana di animale da palcoscenico, anche se in questi ultimi tempi, data la sua oramai veneranda età, non mi sembra il caso che esponga le sue nudità, diciamo così, perché non è un gran bel vedere, ma questa è un'opinione personale. Lui rimane sicuramente un grandissimo personaggio, e The Passenger è il brano che ci siamo ascoltati da questa registrazione del 6 luglio 2023. E come vi dicevo, e come dice il titolo di questo combo, è stato registrato al Montreux Jazz Festival, questo festival fondato da Claude Nobbs nel 1967 e che Claude Nobbs ha guidato fino alla sua morte nel 2013. Inizialmente, come dice il nome, era votato al jazz, ma poi negli anni 70 si è aperto ad altre espressioni musicali, tipo inizialmente il blues, poi il rock, poi la world music, poi tutto quello che può capitare e che di buona musica è in giro. Tanto che dagli iniziali 3 giorni è diventato un festival di 2 settimane, che è quasi sempre nei primi giorni di luglio, anche se c'è stata qualche eccezione. Sono stato a Montreux, purtroppo non durante il festival, un paio di anni fa, una cittadina molto molto carina sul lago di Ginevra, e il festival era in preparazione, si respirava un'aria veramente splendida, e uno di questi anni ci andrò. Avrete già capito che in questa prima parte della trasmissione ci ascolteremo brani registrati in quell'occasione, durante le varie edizioni, ormai tantissime, del Montreux Jazz Festival. E sono molto felice di cominciare da una band italiana, un quintetto che è stato in giro dal 1971 al 1977. Poi ci sono state delle riunioni estemporanee e occasionali. Si chiamava Perigeo. Veramente entusiasmante come band, tutti musicisti di altissimo livello, hanno fatto 3 album live, questo si chiama, guarda caso, L'Herbe Montreux, è stato registrato il 7 luglio del 1975, il pezzo che ho scelto per voi si chiama semplicemente Polaris, loro Perigeo. We'll be right back. Insieme di musicisti fantastico, quello del Perigeo, 5 super veramente incredibili. Live Montreux, l'album che ci siamo ascoltati, il brano in particolare Polaris, registrato il 7 luglio del 1975. E il Festival Jazz di Montreux dà spesso l'occasione di duetti, accoppiate che insolite e straordinarie. Questa è una di quelle, insieme a due grandissimi della musica jazz, Miles Davis e Quincy Jones. Quincy Jones purtroppo ci ha lasciato lo scorso anno, sul finire dello scorso anno, ma è stato veramente un grandissimo a 360 gradi della musica. Si chiama Miles and Quincy Live at Montreux, l'album che ci andiamo ad ascoltare, 8 luglio del 1991, in occasione del 25esimo anniversario del Montreux Jazz Festival, insieme alla Gil Evans Orchestra. Questi due mastodonti della musica jazz ci offrono proprio un brano di Gil Evans che si chiama Springsville. Thank you. Ed eravamo in tema di duetti e questo è semplicemente fantastico. Carlos Santana, Wayne Shorter, live at the 1988 Montreux Jazz Festival, dal vivo appunto al Jazz Festival di Montreux nel 1988, esattamente il 14 luglio. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Elegant People, è un brano di Wayne Shorter, per cui Carlos Santana è rimasto un po' in secondo piano, ma la sua band si è sentita e come, veramente un doppio dischetto assolutamente, assolutamente notevole, e due musicisti che non si discutono. Carlos Santana rimane on stage, come si suol dire, perché un altro duetto che ha fatto il nostro chitarrista nel 2011, sempre a Montreux, è insieme a un altro grande chitarrista che si chiama John McLaughlin. Credo che molti di voi lo conoscano per la sua militanza nel Mahavishnu Orchestra, poi insieme a Shakti e a diversi altri, diverse altre esperienze. Nel 1973 i due fecero un album splendido in studio che si chiama Love, Devotion and Surrender, perché in quel periodo erano entrambi adepti di un guru che, se ricordo bene, si chiamava Sri Chinmoy, ma non sono sicuro, e si sono ritrovati appunto sul palco di Montreux il primo luglio del 2011 e hanno inciso e pubblicato questo doppio dischetto che si chiama Invitation to Illumination. Il brano che ho scelto per voi, giusto per rimanere in tema di grandi nomi, è un brano di John Coltrane, uno dei suoi super classici, rivisto alla maniera di Santana e McLaughlin, appunto il primo luglio del 2011 in quel di Montreux. Si chiama Naima. Thank you. continue with a number that we recorded recently, and it was a number I was supposed to record with one of my dearest friends, one of the greatest guitar players ever, Mr. Paco de Lucia. And we passed, we miss him. God, I miss him so much. And we never got to record it. So I made an arrangement with these marvelous gentlemen behind me, and we recorded it on the last album, on the Black Light album. And I named it for him. It's just a little homage to my dearest friend. And this is a piece called El Hombre Que Sabía, The Man Who Knew. Thank you. E dopo il duetto acustico con Carlos Santana è rimasto Joe McLaughlin in solitaria, cioè in proprio nome per dire il vero, accompagnato da una band che si chiama Four Dimension, in una registrazione effettuata naturalmente al Festival di Montreux nel 2016. Si chiama The Montreux Years, questo album di Joe McLaughlin, che contiene registrazioni effettuate durante gli anni, in diverse apparizioni di Joe McLaughlin a questo fantastico festival. Che in definitiva è stato omaggiato con tante pubblicazioni che rimangono fuori da questa trasmissione, purtroppo, perché il tempo come sempre è tiranno. Ce ne sono veramente tantissime, credo e spero che non mancherà occasione per ritornare a parlare e ad ascoltarci brani registrati in questo festival che, lo ripeto, si trova si tiene in questa bellissima cittadina svizzera che si chiama Montreux. A concludere questa piccola, come dicevo, rassegna dedicata a Montreux, arriva una cosa più recente, una cosa più nuova, diciamo così, anche se è del 2022. Loro si chiamano Smile, è una band che è formata da Tom York e Johnny Greenwood dei Radiohead, più Tom Skinner, batterista eccelso, che arriva da una band che si chiama Son of Kemet. Sono attivi dal 2018 e sono veramente tostissimi. Hanno pubblicato questo Live Montreux Festival 2022, che è scaricabile solamente da internet, non è in formato fisico. Ce l'andiamo ad ascoltare, il tutto è stato registrato il 12 luglio del 2022 e il pezzo si chiama Thin Thing, loro invece si chiamano Smile. Kind of mushroom. Mercoledì 12 febbraio 2025, seconda parte di Città Fujiko Live Club, seconda parte che è iniziata come sempre con la novità che vi propongo quest'oggi, Iggy Pop Montreux Jazz Festival 2023. Ottimo disco, c'è questi arrangiamenti con i fiati abbastanza inusuali per quel che riguarda il hip hop. Sono veramente molto molto accattivanti, molto interessanti e molto coinvolgenti. Il brano che ci siamo ascoltati è la title track del primo album live mai pubblicato da Iggy Pop, era il 1978. Album che vedeva registrazioni effettuate con David Bowie alle tastiere nel corso di un tour dell'anno precedente, e il pezzo si chiama appunto TVI ed è il secondo pezzo del CD che compone questo combo, appunto, lo ripeto, CD più Blu-ray, che si chiama Montreux Jazz Festival 2023. A questo punto, come sempre, arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Ancora una volta tantissime cose, per cui molto velocemente partiamo con una registrazione effettuata nel 1964. Ritorna in scena dopo essere stato in precedenza insieme a Quincy Jones, stavolta in versione solista, Miles Davis, o per meglio dire Miles Dewey Davis III, che proveniva da Alton nell'Illinois, che ci ha lasciato purtroppo nel 1991. Chiaramente ha fatto un sacco di album sia in studio che dal vivo, usciti durante la sua lunghissima carriera ma anche postumi. Questo My Funny Valentine racchiude registrazioni effettuate alla Philharmonic Hall of Lincoln Center a New York City il 12 febbraio del 1964. Ci andiamo ad ascoltare quello che credo, se ricordo bene, è stato il primo pezzo che io abbia mai ascoltato da Miles Davis, tantissimi anni fa. Si chiama All Blues, 12 febbraio 1964. Thank you.

Come sempre una band eccezionale, quella assemblata da Miles Davis, non vi sto a dire i nomi perché sono sempre incredibili, All Blues, il brano che ci siamo ascoltati da questo album che si chiama My Funny Valentine, che fra l'altro è il brano che apre tutto questo ottimo, ottimo album. All Blues, fra parentesi, con i suoi 8 minuti e mezzo, è il brano più corto che vi ho offerto quest'oggi. E quindi molto velocemente, perché altrimenti non ci stiamo come coi tempi, andiamo da un grandissimo della musica jazz a un grandissimo della musica blues, rock blues per meglio dire. Rory Gallagher veniva da County Donegal in Irlanda, un paese che si chiama Ballyshannon, è stato coi Taste dal 1966 al 1970, poi è andato in solitudine per una carriera incredibile che si è spenta però troppo troppo presto. Live in Europe è il suo primo album dal vivo ed è stato registrato in diverse occasioni, fra cui anche 2 in Italia, uno allo Space Electronic Club di Firenze e il secondo invece, che è quello che ci andremo ad ascoltare, si chiama Laundromat, il pezzo è stato registrato al Teatro Lirico di Milano il 12 febbraio 1972. Rory Gallagher. Uno dei classici della carriera di Rory Gallagher, chitarrista eccelso veramente, e è fra l'altro uno dei primi brani da lui scritti da lui himself. Si chiama Laundromat e questa registrazione è stata effettuata al Teatro Lirico di Milano il 12 febbraio del 1972. Fa parte di un album che si chiama Live in Europe, come dicevo in precedenza, registrato in diverse parti d'Europa e in un paio di occasioni anche qui in Italia. A questo punto andiamo subito con un cambiamento di, ancora una volta, di genere musicale. Siamo infatti insieme a una band che più funk non si può. Loro venivano da Chicago, sono stati attivi dal 1970 al 1983, si chiamavano Rufus and Chaka Khan. Sono stati molto molto popolari negli anni 70 negli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo, soprattutto con il brano che ci andremo ad ascoltare adesso, che credo molti di voi conosceranno. Il doppio album in vinile che vi propongo si chiama Stomping at the Savoy, è il loro ultimo album, uscì qualche giorno prima, oserei dire, del loro scioglimento. È un doppio long play, come vi dicevo, tre facciate dal vivo più una in studio. Dopodiché Chaka Khan se ne andò per una carriera solista che le ha dato parecchie soddisfazioni. Le facciate dal vivo sono registrate, come dice il titolo, al Savoy Theater di New York City il 12 febbraio del 1982, e ce ne andiamo ad ascoltare, come dicevo, il brano forse più famoso della produzione di Rufus and Chaka Khan, lo ripeto, 12 febbraio 1982, lo ripeto meglio, si chiama You Got the Love. Sono un sacco di bands che non hanno avuto il successo che avrebbero meritato, a mio avviso, ma è sempre una questione molto opinabile. Inspiral Carpets è una di queste. Loro venivano, anzi vengono tuttora, da Oldham, che è un agglomerato urbano che è uno di quelli che formano la Greater Manchester, in Gran Bretagna naturalmente. Sono attivi dal 1983, ma hanno avuto diversi sbandamenti, diciamo così, diversi scioglimenti, ricostituzioni e cose del genere, con naturalmente, come sempre accade in questi casi, organici diversi. Una band diversa dalle altre, perché, come avete sentito anche in questo brano che si chiama Fire, lo strumento guida della musica degli Inspiral Carpets era l'organo, era la tastiera, che non è una cosa usuale, diciamo. Loro non hanno fatto album dal vivo, ma hanno fatto un sacco di singoli con canzoni dal vivo. Questo è uno di quelli, anzi questo addirittura è un doppio singolo, nel senso che ci sono in una confezioncina due CD single che si chiamano entrambi Beaches Brew, questo è il titolo della canzone clou della canzone principale del singolo, e a seguire ci sono canzoni registrate dal vivo diverse l'una dall'altra, naturalmente nelle due versioni del singolo, tutte però registrate al Barrowlands Glasgow in Inghilterra, chiaramente il 12 febbraio del 1992. Come vi dicevo, il brano che ci siamo ascoltati si chiama Fire. Torniamo negli Stati Uniti e precisamente a Nashville, Tennessee, che non è solamente la città del country come molti credono, ma ci sono svariati generi musicali che circolano per questa grande città. E la band che ci andiamo ad ascoltare è stata attiva dal 1991 al 2004. Si chiamavano Screaming Cheetah Willies, un nome abbastanza particolare, le ruote della cheetah urlante, più o meno, insomma. E loro sono stati accomunati anche al movimento Southern Rock, ma ne hanno poi preso le distanze. Hanno fatto 4 album in studio più 2 dal vivo prima che Mick Farren, che era il cantante, chitarrista e leader, lasciasse la band, che così dopo si è sciolta, e per la propria carriera solista, dove ha cambiato radicalmente genere. Ve l'ho fatto ascoltare qualche volta, fa un genere molto entertainment, molto folk rock, diciamo, cose del genere, completamente diverso da quello che facevano appunto gli Screaming Cheetah Willies. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è tratto da un album, anzi un doppio album, perché si chiama Live Volume 1 and 2. Appunto sono 2 volumi, però uniti nella stessa confezione. È stato registrato questo doppio dischetto al 328 Performance Hall di Nashville, appunto, quindi in casa loro, e il tutto il 12 febbraio dell'anno di grazia 2000. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Something Else, loro si chiamavano Screaming Cheetah Willies. talking about my baby. She's tearing me apart. There's something about my baby. Due chitarre incandescenti per questi Screaming Cheetah Willies, ce li siamo ascoltati in un brano che si chiama Something Else, l'album invece si chiama Live Volume 1 and 2 ed è stato registrato il 12 febbraio del 2000 in quel di Nashville. A concludere Città Fujiko Live Club, ricordi Today naturalmente, arriva una grande band from Athens, Georgia. Loro si chiamano Widespread Panic e sono uno dei, dal 1986, uno dei grandi gruppi del movimento jam americano. Una piccola parentesi, alla batteria dal 2014 siede Duane Trax, che è il fratello di Derek Trax, della premiata ditta tedeschi Trax Band. Questo era un inciso a parte. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Wood, perché legno, perché è praticamente tutto acustico ed è principalmente, diciamo, acustico, e appunto chitarre acustiche sono fatte di legno, del resto anche quelle elettriche, ma comunque questo è un altro discorso. Il tutto è stato registrato al Fillmore Auditorium di Denver in Colorado. Ma prima di annunciare il brano vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, il tutto da Radio Città Fujiko in Bologna, ogni mercoledì quasi dalle 10.30 in poi, due ore di musica dal vivo, registrata dal vivo di tutti i generi, quasi tutti i generi di tutte le epoche. E l'appuntamento è per mercoledì prossimo, naturalmente con stesse frequenze, stesse modalità d'uso. E a proposito di mercoledì prossimo, colgo l'occasione, vi faccio ascoltare Widespread Panic in una cover, perché uno dei motivi principali della prima parte della trasmissione prossima, di mercoledì prossimo, saranno appunto le covers. Il classico, un classico di John Lennon che riconoscerete sicuramente, si chiama, guarda caso, The Ballad of John and Yoko. Grazie a tutti per l'ascolto, ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao a tutti da Nevio.